Cosa fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah sì, programma radiofonico. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Cancro è lì, sta nelle famiglie, perché se una mamma non si accorge con figli che droga, per me è una mamma fallita, ha fallito, si deve solo suicidare, scusate, perché non possiamo sempre dire forze di polizia, forze di polizia, forze di polizia, ma forze di polizia non è che fanno i badanti e il tutore al posto di chi deve assolvere nel migliore dei modi il ruolo genitoriale. Ma tu lo sai, Davide, che la cosa che mi colpisce di più di queste parole del signor Repucci, prefetto ex, spero, tra pochissimo. Già prefetto. Vabbè, è stato rimosso, ma in realtà poi ci sono i provvedimenti da prendere, sai, le cose tecniche. A parole è stato rimosso, a parole, poi bisogna vedere nel concreto. Allora, la cosa che mi ha colpito di più dell'intervento di questo signore Antonio Repucci, prefetto o già prefetto di Perugia, come dici tu, sì, è ovviamente il contenuto, l'offesa gravissima a tutte le famiglie che hanno problemi di droga in casa, perché una madre può anche non accorgersi che un figlio si droga, perché oggi, insomma, un figlio, se vuole, racconta quello che vuole. Sì. Ma al di là di questo, è il dialetto napoletano. C'è la parlata napoletana, quella. Ma mi perché? Ha, sì, quella mi ha colpito. Se questo qua in ma fondo sei è un po' razzista. No, sei. Ma non è, poteva cioè, essere tu pure. Tu dici un funzionario dello Stato di così alto livello non può parlare, esatto, in dialetto napoletano. Poteva essere anche piemontese, poteva essere anche romano, è uguale, ma sto dicendo mi ha colpito non perché era il dialetto napoletano, perché parla in maniera sguaiata e badante. Risentiamo questo passaggio. Ma non è che la polizia, la magistratura possono fare e badante, cioè quasi non si capisce. Capito? Il cancro è lì, sta nelle famiglie, perché se una mamma non si accorge con figli che droga, per me è una mamma fallita, ha fallito, si deve solo suicidare, scusate, perché non possiamo sempre dire forze di polizia, forze di polizia, forze di polizia, ma forze di polizia non è che fanno i badanti e il tutore al posto di chi deve assolvere nel migliore dei modi il ruolo genitoriale. Oggi al Corriere della Sera il signor prefetto, già prefetto di Perugia, dice che suicidati è un intercalare napoletano. Ora abbiamo fatto una ricerca ad ampio spettro, caro Parenzo, ad ampio spettro. Sì. Oggi non risulta che sia un intercalare napoletano, che in realtà significa non suicidarsi dal fallito. Punto di vista. Sì, significa. È una stronzata, punto e basta. Al di là di che sia un intercalare napoletano, eccetera, eccetera. Chi lo difende dice, in fin dei conti, cosa ha detto? Ha detto che la famiglia deve occuparsi, la famiglia deve interessarsi, deve, certo, deve essere più attenta ai figli. Ma non è che questa banalità la può dire un prefetto, cioè questa è una che le famiglie debbano occuparsi dei figli, non è che ce lo deve dire il prefetto di Perugia dal suo scranno, no, dal suo scranno, non ce lo deve dire lui. È normale che sia così, è normale. Però non c'è solo questo, non c'è solo questo. Innanzitutto dice che mio figlio, se bevesse o si facesse uno spinello, lo prenderei a schiaffi, anzi se bevesse. Sentiamo questa, il signor Repucci, che non si limita a questa stronzata sulle madri che si devono suicidare se non si accorgono che i figli si drogano. Se uno mette al mondo dei figli, poi deve stare pure attenti ai figli, vedere la sera che cosa fanno. Dopo mezzanotte vado a Corso Vannucchi, perché tutti questi giovani con le bottiglie in mano, vuote, tutti a bere. Scusate, se io avessimo figli io prenderei a schiaffi a Corso Vannucchi, in quelle condizioni. Ho scoperto che Pasquale. Ora, anche qui va benissimo, si riferisce alla situazione di Perugia che noi conosciamo, sì, bene, con tutti quei ragazzi che a un certo punto sono con le bottiglie di birra in mano, ma a parte che sono cazzi delle famiglie. cioè il modo in cui educare o meno i figli, se farli uscire o non farli uscire, sono affari delle famiglie. Cioè, se io fosse mio figlio lo piglierei a schiaffi perché c'ha una bottiglia in mano in mezzo al corso, francamente. No, ma parla come si parla al bar, cioè è, più che altro è quello che dice che è abbastanza lucido. Però possiamo dire che c'è una ghigliottina su quest'uomo, no, cioè, capisco. Cioè tu dici che il ministro degli interni è autore di diverse gaffe. Il signor ministro degli interni Alfano che ha annunciato prima, mentre si stava compiendo il fermo di polizia nei confronti del presunto assassino della signora Iara, convocava urbi e torbi, termine che piace a lei tanto, grande conferenza stampa dicendo abbiamo arrestato. Allora, voglio dire, è chiaro che questo servitore dello Stato, il signor prefetto, di cui fino a ieri tutti noi ne ignoravamo l'esistenza, per fortuna, sì, io per fortuna, primo, sì. O tu conoscevi l'esistenza del signor Repucci? No, forse. Allora... ti svegliavi la mattina e dicevi cosa ha fatto Repucci? No. Prefetto di Perugia. Dopodiché, questo signore nella sua vita, però, come testimoniano molti sindaci che gli hanno scritto per dargli testimonianza, cioè guardate che non è l'ultimo dei cretini. Vabbè, allora... ecco, per una frase, quest'uomo è stato lapidato nella sua definitiva carriera. È normale che sia così, però. Non è normale perché l'Italia è così, perché sono applausi e sputi come sempre. Mentre per cose ben peggiori, cioè, tu dici questo, che chi l'ha defenestrato, ci sono persone chi l'ha, che ha defenestrato come Alfano è autore di mille gaff che non paga. Sto dicendo esattamente questo. Esattamente. Vabbè, ho capito. Questo. Ancora Repucci, per uno spinello mio papà mi avrebbe tagliato la testa. Questa è proprio la mentalità che più non sopporto. Per uno spinello mio papà mi avrebbe tagliato la testa. E che hai fatto mai per uno spinello? Su, uno spinello! Molte volte, soprattutto il lunedì, faccio un po' il resoconto delle patenti che si ritirano per alcol e droga. Certo, lì ho problemi, esiste, quindi ho problemi. Poi magari arrivi in segnalazione, e mio figlio che ha fatto? Si è fatto uno spinello. Cioè, a me si tende a minimizzare. Mio padre mi avrebbe tagliato la testa. Spererei che qualche umbro tagli la testa al figlio, così cominciamo a dare un buon esempio, perché poi fa parte anche di questa decadenza della potestà genitoriale. Questo lo dobbiamo dire. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. E ci sarebbe da discutere anche sulla potestà genitoriale, come genitoriale. Sì, genitoriale è la pronuncia corretta, invece in questo caso è tutto un po' mischiato, Sì, ma uno può parlare italiano, cioè se fai il prefetto devi parlare italianisch, come si direbbe in tedesco, italianisch, italiano, io non pretendo tanto, italiano. Ma non farei la critica su questo. No, io la faccio, qui noi alla radio possiamo permetterci di parlare come vogliamo. Un prefetto della Repubblica davanti a un pubblico, davanti a un uditorio, in una conferenza, parla italiano. Parlava così, usava questo linguaggio colloquiale proprio forse per far arrivare il suo messaggio. Ma chi? Hai Perugini, ma se è di Perugia e parla napoletano, è prefetto a Perugia e parla in napoletano, ma di che stiamo parlando? Dai, perché a Perugia non capiscono quel che dice lui, scusa. E Nabucco salirà. Oliviero Toscani, vergogna. Fosse stato piemontese non avresti detto questo. Come no? L'avrei detto uguale. Sì, l'avrei piemontese, detto. Piemontese. Sì, avrei detto la stessa secondo cosa. Secondo me sì, non l'avresti. Sì, assolutamente, sì. Certo. Sembra un po' più sguaiato in questo caso. Vedi? No, vedi, ma l'avrei detto lo stesso. Oliviero Toscani, vergogna, perché non ti sei inalberato, non ti sei indignato davanti alle parole di Oliviero Toscani, che ha detto che il sindaco di Padova, Bitonci, non appartiene alla razza umana. Non hai detto nulla, sei stato muto, silenzioso, perché la pensi come lui. No, questo non lo penso come lui. Il nuovo sindaco leghista di Padova, l'amico di Parenzo. Non appartiene alla mia razza, sono vergogna. Come? Appartenere alla razza umana. Ma no, dai, su. Dai, cioè ti vergogni di appartenere alla stessa razza, alla di razza umana? Sì, esatto. Cioè perché sono disumani, non sono umani queste persone, no, qua. No, subumani. Guida il popolo nella tempesta come una madre il figlio. Ma cos'è che invitino? Questi qua sono gli analfabeti. Ma non ho capito, ma i padovani si sono impazziti allora? Sì, quelli lì sì, mica tutti, chiaro. Mica, cioè tutti. Quelli che hanno votato la Lega sono degli imbecilli, dei cretini, a Padova. Di più. Non vorrei insultare gli imbecilli, no. Tutto per la libertà. E se il comune di Padova ti invita per fare una cosa, non ci vai? Adesso è guidato. Fatti una scoreggia. Ma come? Cioè se ti invita a fare, che ne so, una mostra fotografica a Venezia, ti faccio una scoreggia. Ania bella e libera. Guardavano. La Mussolini dice, abbiamo già un ospite pronto intanto, la Mussolini dice che il Partito Popolare Europeo non la vuole per via del cognome. Senti. C'è il Partito Popolare Europeo che non gradisce la mia presenza nel suo gruppo per il cognome. Allora, io credo che questa non è un'offesa. Non gradisce, cosa vuol dire? Mi scusi. Non vuole il cognome Mussolini nel gruppo. Quindi la mette fuori dal gruppo? Bisogna vedere quello che succederà domani e quelle che saranno le mie parole di risposta. Ne sentirete delle belle, perché in faccia io glielo dirò. Padania bella e libera. Guardava. Ma abbiamo con noi il mitico Don Paolo Farinella, prete di Genova. Buonasera Farinella. Buonasera, buonasera. Come lasci sta? Stare il mitico, lasci stare il mitico. Beh sì, siamo il mito qua, siamo la mitologia più assoluta. Un prete che parla chiaro, un prete che dice la sua, non ha paura, affronta di petto tutte le Perché questioni. Perché dovrei avere paura? Beh Don Paolo, qualcuno dice, insomma, lei non ci va leggero nelle cose, dice quello che ma pensa. Insomma, dico, prima di tutto... Non dico solo quello che penso, penso di pensare anche quello che dico. Ma lui ha l'aiuto pensare di Dio, quello che capito? Dico non è male. Lui ha l'aiuto di tu Dio. Tu stai zitto, capito? Che lo critichi sempre. Perché... No, ma non dipende da cosa dice, non è che lo critico a prescindere. Io. Senta, Farinella, ma la questione Bertone, com'è finita? La questione Bertone adesso è lì. Credo che ci sia un'indagine da parte del Papa per sapere dove sono andate a finire questi 8 milioni e passa della Carige. Perché sembra che abbia ricevuto, almeno sembra. Papa ha detto che sta indagando, aspettiamo che io se fossi il Papa preventivamente l'avrei messo a riposo. Tolto da cardinale, l'avrei mandato alla Cayenna. Come la Cayenna? Ma l'abbiamo già detto, la Cayenna. Lo disse a tempo debito. Sì, è un'espressione che ha usato lui. Ma questo attico alla fine, i lavori sono fermi, l'attico di Bertone, l'impresa edile è fallita, insomma è senza casa. Questo non lo so, so soltanto che l'ha pubblicato qui sulla rivista settimanale diocesana di Genova, ma su tutti i settimanali diocesani, ha pubblicato una lettera in cui confrontava la sua abitazione. Sì. Con le cose che ha detto la stampa, degli esagerati secondo lui, e con la presunta ristrettezza in cui vivrebbe il Papa. Ah, e beh? Si rende conto? No, non mi rendo conto. Cioè, se lui mette, mette in dubbio, sottilmente, no? Questa è una sottigliezza, mette in dubbio l'austerità di vita del Papa. Senta, ma il Papa secondo lei rischia qualcosa? Cioè rischia la vita anche? Sì, secondo me il Papa sta rischiando prima di tutto il crepacuore, perché è molto isolato, infatti lo dice. Ma rischia anche, come dire, qualche congiura, cioè rischia davvero la vita secondo me. Ma per ora sono tutti congiurati, la maggior parte sono tutti congiurati, quelli che contano sono congiurati contro di lui. Ma rischia la vita secondo lei? Beh, potrebbe anche, però è un po' più difficile perché... Farlo fuori è difficile, a meno che non trovino una forma che non lasci tracce, insomma. Però lei vede questa possibilità, questo pericolo, diciamo? Il pericolo c'è sempre, perché lì dentro ci sono il regno del demonio lì dentro. Ma lo descrive come fosse il Mose, praticamente, il consorzio Nuova Venezia sembra quel posto lì. Il Mose è una cosa da novizi. Al confronto, dice lei. Al confronto. Well now, little mosquito, there must be. È ancora qua, Simo. Dell'Utri, hai sentito Parenzo nel weekend? Hai letto qualcosa? Ho visto la cosa dei libri e vuole trovo... fare lo sciopero della fame. Ha ragione. Perché se non li fanno arrivare dei libri? Perché un assurdo regolamento carcerario. C'ha ragione dell'Utri, secondo te? Certo, cioè, Parenzo, due punti. Dell'Utri ha ragione. Ma dipende su cosa, ma di stupidaggini. Su questa vicenda della sua battaglia per cambiare un regolamento carcerario davvero delirante, perché che un detenuto non possa portarsi dentro il carcere più di due libri è una pura follia. Follia pura, perché uno dentro il carcere dice hanno la televisione, non tutti peraltro, hanno tutti gli agi. Dell'Utri chiede di modificare un regolamento folle che prevede che un detenuto non può portare... dai su, è in un regime di ristretto che è simile al 41 bis nel quale lui si trova, no? Chiede semplicemente di portare più libri. Don Paolo, lei è d'accordo? Ma è certo. Ma guardi, perché gli diano la settimana enigmistica, perché Queste sono battute di un certo. Non hanno lo spazio vitale, vabbè, lui chiede dei libri, ma si trova, ma si trova il carcere deve essere anche la limitazione di qualsiasi, come dire, di una forma normale di vita. Se lui potesse avere tutto quello che vuole, non sarebbe carcere. Allora non sarebbe carcere, gli danno i libri a 2x2, lui potrebbe fare, se deve fare, non so, per esempio una ricerca, questo credo che sia consentito, può fare un elenco dei libri che gli servono e glieli danno, ma no, fare questa campagna secondo me è strumentale, perché deve finire sulle prime pagine dei giornali. Ma secondo lei è contro i libri, scusa. Scusi, ma Don Paolo, fa male se legge 5 secondo libri lei, in più? Secondo lei dovrebbe fare più carcere dell'Utri di quello che gli hanno dato? Ma in base alle accuse fatte, siccome alcune sono andate in prescrizione, ne avrebbe avute di più. Poi sa, sono cioè, ma uno della sua età è giusto che finisca? Meritava molto di più. Questo non lo dico perché con compiacimento, dico semplicemente che siamo in Italia, ecco. E dunque? Per esempio, guardi un po' Berlusconi. Berlusconi con due ore, tre ore, quelle se che sono, cava, sì. se la cava, ma scherziamo, ragazzi, ma voi l'avete mai visto un carcere dentro? No, io no. Ma scherziamo. Ma scherziamo, provate ad andarci qualche volta. Vabbè, ma Berlusconi, io dico una cosa, no? Berlusconi adesso è diventato sempre più marginale, se ne parla sempre meno, eccetera. Ha visto, Don Paolo. Non è vero questo, sta riformando la Costituzione. Ecco appunto, siamo fuori dalla grazia di Dio. Renzi preferisce Berlusconi a Grillo per discutere, ha sentito, sì? Sì, ho sentito. Che ne pensa, Don Paolo? Grillo l'ha fatta, come si dice a Genova, l'ha fatta fuori dal bulacco, perché avrebbe dovuto anche pensarci prima, perché è chiaro che era una forma, un modo questo di intromettersi in un discorso che ormai si avviava alla conclusione, no? Però sta di fatto che Renzi ha scelto Berlusconi e a Grillo lui ha scelto Berlusconi perché è un berlusconiano, alla fine è berlusconiano, lui è più berlusconiano di Berlusconi, che vedrà alla fine, che tant'è vero che la questione della immunità parlamentare, chi la vuole? La vuole il PD, non la vuole mica altri. Berlusconi e la destra ci vanno a nozze con questo, però il PD non solo non disdice, ma approva, e adesso giocano a scaricabarile, cioè è una cosa veramente indecorosa, indegna, immorale. Senta, Don Paolo, ma ha sentito il prefetto sulla droga? Sulle mani. Io l'ho sentito. Io ho pensato a quella povera mamma sua che si è messo le mani ai capelli, perché forse ha pensato che quando è nato lui stava tentando di suicidarsi. La madre del prefetto, perché è inconcepibile, ma principalmente per un semplice motivo, perché quest'uomo che rappresenta lo Stato, prima cosa dovrebbe studiare la grammatica, la morfosintassi. Quello non c'è dubbio. La seconda cosa dovrebbe studiare una dizione. Una dizione perché? Perché lui, no, come dire, non parla la lingua nazionale. Ma siete dei bei razzisti. Lui parla semplicemente così, ma come mamma l'ha fatto, capito? Però scusi, lei ha detto prima che la madre dovrebbe suicidarsi per averlo messo al mondo, questo? Ma no, ma voglio dire, prendo la sua battuta, cioè nel senso di dire che è una stupidaggine così, ma nemmeno un bambino l'avrebbe detta. Lo so, è così. Anche perché lui dovrebbe sapere, dall'altezza del suo scranno, dovrebbe sapere che lo Stato, con tutti i tagli che ha fatto nell'assistenza sociale, ha lasciato le famiglie, per esempio parlo dei terzi, ha lasciato le famiglie completamente sole. Sì, vabbè, quello è un altro discorso. Non dipende dal prefetto. Io però sono curioso di sapere, siccome si parla moltissimo in questi giorni della legge sui matrimoni gay, eccetera, Don Paolo, ma lei ha mai avuto la tentazione di andare con un uomo, per esempio, no, o le piacciono, no, ma nemmeno con una donna? No, perché mai. Io no, come dire, Mai avuto una tentazione? C'è stato un momento in cui dovevo decidere, ma per altri motivi, se continuare a fare il prete o non continuare a fare il prete, perché ero sempre in lite con i miei superiori. In un certo momento, beh, quello è un altro discorso. Però tentazioni sessuali ne ha avute diverse. Però io, se io non fossi prete, io non mi sposerei. Ah, addirittura. Perché? Perché conosco anche tante altre persone, perché non sono chiamato, non mi sento portato per il matrimonio. Ah, ma lei sposerebbe due? Per me sarebbe una forma di prigionia. Non avrei, per esempio, guardando la mia vita passata, io ho 67 anni, sì, e guardando la mia vita passata io non avrei potuto fare ed essere quello che ho fatto, quello che sono stato e quello che dove sono stato, capito? Io non sento il matrimonio, assolutamente. Se danno la libertà, per esempio, se dovessero mai alla mia età, con tutti i problemi che ho i problemi non, oggi non ma esistono. Ma lei ha mai sposato più qualcuno? Però io non mi sposerei, non mi sarei sposato nemmeno senza essere prete. Ma i matrimoni li fa o no lei? Come? I matrimoni li fa o no ogni tanto? No. Certo che li faccio, ne ho fatto anche e uno. E non dice civile a quelli, ma che vi sposate a fare? No, assolutamente. Ma lei sposerebbe due uomini? Sposerebbe due uomini? Sono ammirevole, perché sposerebbe lei due uomini e due donne insieme? Li sposerebbe? In questo momento la legge non me lo permette questo. È inutile che io stia a ragionare e a fare il Don Chisciotte. Da un punto di vista biblico ci sarebbe forse qualche problema. Un'ultima cosa, ma lei quanti preti hanno rapporti sessuali secondo lei? Molti preti? Mi dica la verità. Guardi, nel X secolo c'era un vescovo tedesco che il giorno di Pasqua ha detto queste, rivolgendosi al clero. Sì. Me lo dice un attimo, Don Paolo, me lo dice dopo il giornale radio, eh. Quanti preti oggi hanno rapporti sessuali, Don Paolo Farinella? Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Dicono che io sia il tuo padre naturale. Mi fa piacere che non sei frocio e quindi sono orgoglioso di te, figlio mio. Venuta nel mio spazio sotto il salice. Allora, questo ascoltatore si rivolgeva a me. Devo dire la verità che sono abbastanza deluso, caro Parenzo, da questo mega sondaggio realizzato dall'associazione Donne e Qualità della Vita, presieduta dalla sessuologa Serenella Salomoni. Una preziosissima, una fantastica organizzazione, la quale ha scelto chi sono i giornalisti più sexy, i giornalisti più amati dalle donne. Oh, non avevo visto questa. Giornalisti più amati dalle donne. Al primo posto, incredibile dictum, mi ha anche telefonato oggi per annunciarmi questa lieta novella. Al primo posto, Tommaso Cerno, che però si dà il caso sia omosessuale. Beh, vabbè, questo. Però primo assoluto, un sondaggio molto particolareggiato, un sondaggio insomma molto, no, di quelli fatti bene, no, ma vai là, sex symbol, un giornalista gay. Beh, il più amato tutti donne i giorni su questo. Tommaso Cerno il più amato, al secondo posto Massimo Giannini di Repubblica, al terzo posto Maurizio Belpietro di Libero. Podio Cerno, Giannini, come? Belpietro. Signor Belpietro. Che ti devo fare così? Al quarto posto Marco Travaglio, al quinto posto Mino Taveri di Sport Mediaset, al sesto posto il sottoscritto, cioè Giuseppe Cruciani, al settimo posto Antonio Polito, anche qui sorpresa delle sorprese, all'ottavo posto Andrea Scanzi che si sta per suicidare, al nono posto Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport, al decimo posto Ivan Zazzaroni, giornalista sportivo molto noto, Rai, eccetera, eccetera, capito? Sono sesto. Vabbè, ce ne faremo tutti. Preceduto da Tommaso Cerno, Giannini, Belpietro, Travaglio, Taveri. Ma ragazzi, tu sei talmente scurnaggiato che tu giochi. A Padova sono molto incazzati per le dichiarazioni rilasciate alla Zanzara da Oliviero Toscani, il quale ha detto innanzitutto che Gentilini era una diarrea come sindaco. Scherzava, dai toscani, usa sempre questo linguaggio. Ma stai dicendo? Non scherzava, e tu tra l'altro non ti sei arrabbiato. Ma come? Insomma, arrabbiato no, di che cosa? Lo no, diceva no. Toscani, di cosa mi devo arrabbiare? E me che c'entra, che è un coglione Toscani? Io non... ma è la sua e opinione. Allora? Io non considero sicuramente... Non avrei usato queste parole, che voglio di Bitonci, a cui va tutto il mio in bocca al lupo, che governi bene senti, la mia senti, città, senti quella qui, che mi ha dato senti, i natali. Senti. Ma ve lo ricordate Gentilini? Sì. Ma è un sì. disastro, una, è una diarrea umana. Beh, però Gentilini ha governato a Treviso, non mi pare che a Treviso ci fosse una diarrea. Sull'erba molto spesso Bitonci non appartiene alla razza umana. Il nuovo sindaco leghista di Padova è l'amico di Parenzo. Non appartiene alla mia razza, sono vergogna. Come? Di appartenere alla razza umana. Ma no, dai, su. Sì, dai. Cioè, ti vergogni di appartenere alla stessa razza alla di. Razza umana. Sì, esatto. Cioè, perché sono disumani, non sono umani queste persone no, qua. No, subumani. Oliviero, l'hai fatta fuori dal vasino stavolta, te lo dico con affetto, l'hai fatta fuori dal vaso. L'hai fatta fuori dal vaso, caro Oliviero. Diciamo la verità, l'ha fatta fuori dal vaso, dai. A Padova sono furibondi, come è evidente che sia. Ma no? Che furibondi? Sì, articoli sui giornali. Vedrai domani. Capito? TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. L'Unione Europea e l'Italia punta sulla crescita, la cancelliera Merkel apre sulla flessibilità dei patti, nomine salgono, quotazioni Mogherini per la politica estera. Lo scontro sull'immunità, il PD c'era l'accordo di tutti, grillini compresi, questione importante ma non fermiamo le riforme, al TG3 il costituzionalista Ains. Movimento 5 Stelle, con il PD non parleremo di Senato ma Renzi ci ascolti sulla legge elettorale, Grillo a Roma per preparare l'incontro. Scandalo Mose, Galan si difende, sul mio patrimonio solo falsità, la procura incalza, riconducibile alla sua famiglia, operazioni per 50 milioni di dollari. A Palermo Maxi Blitz dentro i segreti di Cosa Nostra, tra i 90 arresti anche il pronipote del killer che 100 anni fa uccise Gio Petrosino. In Sudan il tribunale di Khartoum ha annullato la sentenza di morte per Merian, la donna cristiana condannata all'impiccagione per apostasia è stata liberata. Brandelli e Pirlo presentano la sfida di domani con l'Uruguay e come una finale, dice il regista, il commissario tecnico, niente calcoli, giochiamo per vincere. Il cancro è lì, sta nelle famiglie, perché se una mamma non si accorge con figli che droga, per me è una mamma fallita, ha fallito, si deve solo suicidare, scusate, perché non possiamo sempre dire forze di polizia, forze di polizia, forze di polizia, ma le forze di polizia non è che fanno i badanti e il tutore al posto di chi deve assolvere nel migliore dei modi il ruolo genitoriale. Prendere la Pravda, c'è in omaggio. Simone da Milano, buonasera Simone. Pronto? Sì, dica. Niente, volevo rispondere, sento sotto la mia voce. No, io sento benissimo, parli. Niente, volevo rispondere a Parenzo dell'altra settimana che ha associato uomo di montagna con persona che beve la grappa praticamente. Non ho capito, scusi. L'uomo di montagna? La settimana scorsa, parlando di una persona, non lo so di chi, e diceva se aveva bevuto la grappa, se veniva dalla montagna praticamente, no? Mm. E siccome io vengo dalla montagna, ho pensato che è peggio di un leghista che ma quando associa... io vado in montagna io bevo allora, spesso in montagna bevo associ... sempre la grappa quando vado nelle baite ecco. Sempre io sono di montagna e non bevo la grappa sbaglio invece io dopo una bella passeggiata associa un leghista che ma... tra contro un meridionale uguale sei peggio mi pare una critica poco fondata vabbè. Eros da Vicenza dai su mi pare una critica inutile Eros, Eros, qua. Dai, forza, che fai? Non parli. Eccolo qua. Allora, il signor Parenzo ha parlato tanto di italiani che non vogliono fare il lavoro di concerie, no? Nelle concerie, sì. Mentre io faccio il tappabuchi ogni anno perché i signori neri, senza voler essere. I signori neri? I signori neri, sì. Senza voler essere discriminatori, sì. Quando sono il 27, 28, 29 di luglio, loro partono, nonostante il contratto magari per fino al 15 di agosto. Loro partono e vanno a casa io vado a chiudere i buchi loro, d'accordo? Ma che c'entra, scusi, non ho capito. Sta confermando che per la maggior parte sono gli immigranti che lavorano vabbè allora, concerie. Ma qual è il punto, Eros? Non ho capito. loro in pratica, nonostante hanno un contratto a fine settembre, quando è il 20 di luglio loro non si presentano più al lavoro perché devono andare a casa. E io devo andare a coprire il lavoro loro. Vabbè, ma chi, ma lei ha bevuto? Ma questo qua ha bevuto, è ubriaco sicuro. Cosa vuol dire? Eros, lei ha bevuto stasera? No. Mi sembra dalla voce che sia un po' così, o no? Ma no, è la mia voce così. È la sua voce. Vabbè, ma che lei vada a coprire i buchi, scusa, ma non ho capito. È la mia voce. Sì, ma non ho capito. Eros, ma di che stiamo parlando? Sì. No, ma di cosa parliamo? Non ho capito, di che parliamo? Allora, l'altra sera... Sì, ma ho capito benissimo. Allora lei va a coprire i buchi lasciati da quelli che poi vanno in vacanza. Dunque, bene. Esatto. Conseguenza... Sì, qual è il problema? Non abbiamo capito qual è allora, il problema è questo, che l'azienda che assume me per coprire quelle persone che non vanno a fare il lavoro devono pagare circa 3-4 euro in più all'ora, altrimenti non riescono a fare il lavoro. Vabbè, allora? Allora, cosa succede? E per quale motivo diamo lavoro a quelle persone lì che poi me ne freghiste nonostante il contratto di lavoro? Vabbè. Partono e vanno via e io devo andare a coprire i buchi. E non ci vada a coprirli, non vada, non è che la obbligano ad andare a lavorare, se non vuole non va, che discorso vabbè, è? Vabbè, Cosmo da Milano, mi sono rotto le scatole di questo, Cosmo da Milano, Cosmo. Ciao, faccia di cru de can de caccia. Come, scusi, non ho capito. Ah, sì, questo è il matto, sì. Faccia di cru de can de caccia. Sì. Allora, l'appellativo per Parenzo, disonesto della peggior specie. Appellativo per Cruciani, per riconoscendogli onestà intellettuale, l'appellativo giusto è merda. Merda. Adesso in questa chiave si comprenderà tutto, anche rispondendo alla domanda: come mai questo successo della trasmissione La Zanzara? Sì. Ma uno normale può chiamare uno normale? Uno normale! Su tre, uno! Uso il concetto in questo caso che è tenuto riservato dopo 21 anni in una versione adatta a questa sede. Cosmo. L'originale sarebbe: la folla è femmina, gli piace farsi fottere. La folla, questa è la versione adatta a questa sede, possiamo dire la folla è gay. La folla è femmina, prenderò nel culo, la folla è masochista, gli piace farsi inculare. Ma di cosa si occupa signor Cosmo della vita normale? Perché Parenzo è disonesto della peggior specie? E perché? Ecco la domanda del giorno. E balla a sapere. Perché è un ladro di verità. Sappia Parenzo che quando gli ascoltatori chiamiamo, io lo sto facendo grazie, dopo un anno mi avete dato l'opportunità di richiamare. No, ma è un'opportunità che durerà poco perché senta cosa sta arrivando qua. Senta. Senta cosa arriva. Ascoltatori, non da te. Quindi tu non ti puoi permettere. Vanno essere chiamato giustamente ladro. Buonasera canaglie. Ronda, ronda, ronda, se va bene ronda. Ma poi invece s'appoggia, s'appoggia proprio a dos a me. Sì, amore, ti credo, ti sta pronto, già, è già per la sede. Vai a dire fuori. Che ha detto che non si può spruzzare lì di lì. Allora, Galan oggi si è difeso con una conferenza stampa, una specie di memoriale dalle accuse. Io vorrei ricordare a tutti che siamo davvero nel campo, in questo caso, dell'accusa e della difesa. Cioè, abbiamo un signore che viene accusato di essere un mostro, viene accusato di essere un truffatore universale, di aver intascato addirittura uno stipendio di 1 milione di euro all'anno da parte dei costruttori per facilitare le pratiche sul MOSE, il quale ribatte invece dicendo che i suoi conti correnti sono in linea con quanto guadagna, eccetera eccetera. Poi la procura oggi ha fatto trapelare che sono riconducibili a lui affari da 50 milioni di dollari, no? Ancora Galan che dice che i magistrati non l'hanno ancora sentito e che comunque sul suo conto sono state dette tante fesserie. Allora io vorrei dire a tutti quelli che si scadono, io non ho nessun rapporto di parentela con Galan, lo conosco da un po' di tempo, ma lo conosco professionalmente per averlo invitato qui in questa trasmissione, come tutti noi. È semplicemente una persona accusata. i processi no, non si fanno fuori, i processi si tutti, fanno no, nelle ovvio. Aule di tribunale. No, perché è già stato dipinto come il grande mostro, no, il grande mostro da chi? Galan. Da chi? Da tutti. I giornali? Da tutti. Da noi, tutti. Io le voglio dire una cosa: come sempre pubblicano stralci delle inchieste. Aspetta, siccome è venuto da noi, siccome, sì, ma adesso non è inutile andare nel dettaglio, siccome è venuto da noi a dire che non c'aveva un euro e che aveva dei problemi economici, eccetera, eccetera, lo diceva scherzando, ma in realtà, se ti ricordi, no, quando diceva come il mutuo... Andate a vedere il mio conto, le banche, cioè... le banche che... appunto, devo vendere la barca, disse, la barca, se non ricordo eccetera, male. Allora, io dico una cosa, se tutto quello viene, tutto questo viene confermato, gli sputo in faccia, perché ha mentito anche... No, non si sputa in faccia. Ma no, ma per dire, metaforicamente lo dico, metaforicamente. Se invece hanno, dovesse avere ragione lui, molti si dovranno ricredere. E poi, se i giudici si dicono così sicuri delle prove che hanno, se si dicono così sicuri di avere trovato i conti correnti con i soldi, cioè, perché non fanno il giudizio immediato? Perché non chiedono il giudizio immediato? Se le prove sono così incontrovertibili. Lo può chiedere anche Galan per quello, il giudizio immediato. Sì, ma perché se le prove sono così incontrovertibili. Oh, ma non entrare nel dettaglio del processo. Devi, perché sennò dai informazioni sbagliate. Ma chi se ne frega? E come chi se ne frega? Facciamo un minimo di informazioni. Ma puoi che dire? Se ne frega, se lo può chiedere uno, lo può chiedere l'altro. Ho detto, se la procura pensa di avere le prove inoppugnabili, chiedesse il giudizio immediato. Tu replichi, lo può fare anche Galan secondo certo, il codice, ma chi se ne importa? Beh, è fondamentale, no, però. D'accordo, è fondamentale. Beh, no, abbastanza, scusa. Due se io barche, sono... non 10. Senti, è fondamentale per il codice di procedura penale, non per la zanzara. Due barche, non 10. Ma che vuol dire? Siccome non è soltanto opinione, ma ci due sono barche, anche dei fatti. Due barche, non 10. Tre barche, 10 barche. 10 barche. Due. Due. Una del due barche da pesca, Boston Whaler, una del 1993 di 7 metri, è sbagliato anche il calcolo della guardia. Mia moglie non è cubista, non ha il fisico. Non si può spruzzare lì di lì. Mia moglie non faceva la cubista, non ne ha neppure il fisico, anche se è una bellissima donna alla quale voglio bene, ma non faceva la cubista. Lavorava nel volontariato e quando si seppe che stava assieme a me fu licenziata. Ecco, almeno questo, per favore, almeno questo lo si dica con correttezza. Avete scritto delle infamie. Lo sparo, adesso vi ho chiesto scusa all'inizio, ma nel frattempo non è che non abbiate scritto tutte le peggiori infamie che sono passate per la mente sul sottoscritto. Io sono stato investito da ciclone umano, giudiziario, mediatico, quale non mi sarei mai aspettato. Poi ha attaccato la Guardia di Finanza, ovviamente, l'ex segretaria Minutillo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi alla fine dice anche una cosa: ho confesso che ho evitato di pagare l'ICI. Sentiamo. Lo ammetto, una colpa, no, lo ammetto. Abbiamo tardato la chiusura dei la dichiarazione di fine lavori per un motivo evidentemente fiscale che riguarda l'ICI, no? Finché è aperta la ristrutturazione di una casa, non si, le imposte non si pagano, quindi abbiamo ritardato. Però devo dire la verità, al di là della difesa di Galan, quello che più mi ha colpito in questo fine settimana è una cosa che ha detto il cantante Sting, il quale ha detto una cosa molto semplice e secondo me condivisibile al 100%. Rivolto ai figli ha detto: datevi da fare, perché sì, non avrete neanche un penny del mio patrimonio da 180 milioni di sterline, all'incirca 250 milioni di euro. Questo è un patrimonio di oltre 200 milioni di euro, come normale. Io penso, anzi, pensavo di più, devo dirti la verità, eh? Cioè, pensavo avesse più soldi. Beh, Sting, sì, avesse so, messo so da parte più soldi. Di tutto quel patrimonio, dice Sting, non sarà rimasto un granché il giorno che me ne sarò andato. I miei figli devono lavorare, ne sono consapevole. Ovviamente se si trovassero nei guai aiuterei, ma finora non ho dovuto mai fare. E dice poi che spenderà tutto in attività benefiche, eccetera, eccetera. Va bene, dove andiamo? Andiamo, Cosmo sta ancora parlando, il matto. Cosmo? Sì, prima carissimo Zanza, prima di dire della truffa definitiva che Renzi tenta di portare a termine con sì, l'Italicur, che significa Italicur, un colpo di Stato, colpo di Stato, ecco, beh, perché certo, è un appellativo per te giusto e merda, sì, che ti deve, tu lo riconoscerai per l'onestà intellettuale che ti Cosmo, contraddistingue, questo, quando Cosmo, hai richiamato quella persona non è esploso il cosmo nel Big Bang iniziale. Va bene, ma lui è, tienilo sempre lì. Abbassa, abbassa, non è tanto bello. Lorenzo dalla provincia di Milano. Certo punto, Lorenzo, provincia di Milano. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi, dimmi, dimmi caro. Uno, non è possibile che l'intervento di un prefetto abbia lo stesso livello di intelligibilità di Gomorra la serie. Assolutamente, sono d'accordo con lei. Vabbè, ma questo è un po' razzismo. No, ma sono d'accordo con lei. Non è razzismo, è la realtà. Ma sì, è una forma di snobberia un po' stupida. Poi lei parla di snobberia, parecchio. No, in questo caso sì, io parlo di snobberia, certo. Poi parla di snobberia, ma è secondo. Ma criticare uno per l'accento, per come parla. Ma basta, lo dico io, ma per criticare uno andiamo nel merito, ma non per l'accento. Fermi tutti, fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì. Su. Oh, abbiamo con noi quello che è anche il mio presidente, devo dire la verità, Claudio Lotito, buonasera. Buonasera a voi. Come sta, presidente? Bene, grazie. Non c'è male, ma allora che succede qua? All'improvviso mi fa sta sorpresa che vuole scendere in politica. Ma guardi, il discorso della politica nasce da una, come dire, da una interpretazione data di disponibilità da mia. Ah, ecco. A seguito di un'intervista per affrontare i problemi della vita quotidiana, no? E penso, io non penso che l'interesse di chi ci governa sia quello di rifiutare di avere i contributi di chi vive quotidianamente i problemi, no? Ma lei che vuole fare concretamente? Cioè fare un suo movimento, entrare in un partito politico, in quelli che ci sono già? Così ci spieghi. Ma io ho detto, io oltre a fare il presidente della Lazio, che è un ruolo pseudo istituzionale, sono un cittadino. Come addirittura? Cioè pseudo istituzionale, nel senso che il presidente pseudo, pseudo istituzionale. Ah, perché il presidente di una squadra di calcio è anche più o meno ha un ruolo istituzionale, lei dice. Pseudo istituzionale, ho detto. Guardi, basta che lei prenda l'intervista sul tempo. Sì, no, ma ho letto. E allora, quindi pseudo istituzionale. E visto che faccio l'imprenditore e vivo quotidianamente tutta una serie di problemi, se viene richiesto con spirito di servizio un mio apporto, ecco, dal punto di vista del suggerimento sulla risoluzione di alcune tematiche, penso che ad esempio le voglio dire, ci sono alcuni scollamenti concreti, quotidiani, che vengono percepiti dai cittadini che subiscono alcune distorsioni di applicazione di norme che probabilmente non si attagliano più a una... Il fisco, per esempio, no? Il fisco, lei è grande esperta, avendo risolto un problema, come dire, no? Ma guardi, io ecco, lei ha visto che ho portato a sistema tutto il sistema del calcio, glielo posso dire all'Agenzia delle Entrate, che noi abbiamo portato le squadre di Serie A e di Serie B adesso che stanno in regola. Pensi che quando sono entrato io l'IVA non era un dato sensibile per iscrizione al campionato. Oggi è un dato non solo sensibile, devi documentare per iscriverti di aver pagato l'IVA perlomeno fino a dicembre. Noi senta, presidente, ma lei da chi vorrebbe essere chiamato? Dato lei dice, ecco, i soliti telefoni di Lotito, quanti telefoni ha in questo momento, presidente? Due. Adesso sono ridotti, così. Se sono ridotti a due. Risponda pure in diretta, non c'è problema. Adesso li diceva. No, dicevo una cosa, presidente. Da chi lei dice mi chiamano per un contributo, sono pronto. Ma chi vorrebbe essere chiamato? Che ne so, da Berlusconi, da Passera, da Renzi? Ma guardi, io non ho detto devo essere chiamato. Io ho detto nel momento in cui si dovessero dibattere alcune tematiche di carattere pratico, operativo, perché vede, la politica deve dettare le regole che poi si devono attagliare a quelle che sono le esigenze dei cittadini e non devono essere frutto di un compromesso ma della scelta migliore necessaria in quel momento. Ma lei si sente più vicino al centro-sinistra o alla destra? Mi dica, al centro-destra. Io mi sento più vicino ai cittadini, ai problemi dei cittadini. Vabbè, perché sono cittadini. No, non è che lo dicono tutti, non è così, perché poi dopo è un conto dirlo e un conto attuarlo. Sì. E quindi nel momento in cui entri in un sistema devi avere la capacità. Però presidente, partiamo da una cosa. Lei chi ha votato per esempio alle europee scorse? Così per sapere, è una cosa di trasparenza. Ma scusi, io le faccio un ragionamento diverso. Io mi dovevo fare una domanda. Chi avrebbe preferito che fosse l'interprete chiaramente dei suoi interessi politici? E chi è? E oggi non mi sembra nessuno. Che allo Stato ci siano persone che interpretino al 100% gli interessi dei cittadini. Renzi le piace? Renzi, ho detto che ha dato una scossa al sistema che era dormiente che ha sollevato una serie di criticità che sono sotto gli occhi di tutti, però ho anche detto che poi c'è Bacone che c'è? Diceva che oltre alla tabula rasa, oltre alla tabula rasa poi devi ricostruire. E quindi noi bisogna che la classe politica costruisca un sistema che sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi dei cittadini. Però quali sono gli obiettivi dei cittadini? Mi perdoni. Qual è? Ho detto un fisco che sia equo, le scuole che funzionino, i trasporti che funzionino, gli ospedali che funzionino, e la certezza di far partire tutti in una stessa condizione, di avere le stesse opportunità, e poi lasciare ai singoli poi in base alle loro capacità la possibilità di dimostrare. Beh, non sono fattori teorici questi, però sono fattori pratici. Però Renzi vuole avvicinare i cittadini alla giustizia. Mi perdoni, Renzi ha una mentalità che è la mentalità del sindaco, che è giusto, che sta a contatto con i cittadini, poi deve tradurre chiaramente le idee in fatti concreti. E vabbè, quello tutti, però. Quello non è quello tutti, è i suoi fatti che poi parlano. Però altrimenti demonizzare o distruggere ci vuole poco, no? E infatti il Movimento 5 Stelle in questo momento viene considerato uno che chiaramente contrasta. Ma Grillo per lei che cos'è? Uno che vuole sfasciare tutto, Grillo? Ma Grillo è uno che ha posto chiaramente tutta la situazione politica sulla base di nella contestazione di quello, mettendo in risalto quello, cioè, che c'è costruzione poca, diciamo, costruzione. Poi dopodiché però oltre chiaramente alla demolizione poi c'è la ricostruzione, devi ristabilire che cosa vuoi fare poi. Ma diamo un po' di voti. Renzi fino adesso che voto prende da lei, presidente Lodito? Le dico questo, il voto è frutto di tutta una carriera scolastica, non può essere soltanto di un esame. Quindi troppo presto, esprimere un voto in questo momento sarebbe sbagliato. Troppo presto. Berlusconi in cosa ha sbagliato? Perché un po' ha fallito Berlusconi, diciamo la verità. L'ho detto prima, Berlusconi, l'ho detto anche in quell'intervista, Berlusconi ha avuto l'intuito di capire la necessità di dover ammodernare questo paese. Però ha riportato una parte, anche una forma di orgoglio nazionale, ho portato l'esempio per dire molto residuale delle famose bandiere nelle sedi istituzionali, alcune cose, però poi l'apparato è stato travolto, l'apparato non la persona, a seguito del vasto consenso che ha avuto è stato travolto da che cosa? Dalle donne. Lasci per quello, è un problema, non entriamo nei fatti delle persone. Però quello pure politici, però pure quello è stato un fatto politico, presidente. No, scusi, ma io non so se lei pratica la politica di questa, è la politica delle donne, che cos'è? Se la metto su questo piano, ma no, che discorso è? Voglio dire, io le faccio, il problema è che poi il largo consenso ha onnubilato, che ci chiamiamo così, l'apparato, che per cui si è completamente distaccato da quelle che erano le esigenze della società, dei cittadini normali, di quelli che vivevano i problemi della vita quotidiana. E quindi ha fallito, diciamo che oggi ha proseguito in un atteggiamento costruttivo ai fini dell'ammodernamento, ha avuto il coraggio di dimettersi, però aspetta, sicuramente quello l'ha fatto con senso di responsabilità nell'interesse però del paese. Però scusate, ma lei lei lo farebbe il leader del centrodestra? Si sente in grado di farlo? Ma guardi, c'è bisogno di un leader nel centrodestra oggi, no? Si propongono tutti, c'è un vuoto là, Renzi da una parte, dall'altra parte c'è un vuoto. Ma lei si sentirebbe in grado di farlo? Ma no? Secondo lei, scusi, mi perdoni, se io avessi questa, come dire, vocazione, sicuramente non sta a me stabilire se ho le condizioni e le capacità di poter far ricoprire un certo ruolo. Quindi innanzitutto uno si deve misurare sulla soluzione dei problemi. Però non dice di no, non dice di no, non si sente inferiore ad altri. Nell'ambito della soluzione dei problemi poi deve trovare il consenso di chi apprezza quello che ha fatto. Io, la mia azione è quella di misurarmi sui problemi chiaramente di essere valutato per la soluzione dei problemi, tutto qui. È quello che ho fatto nel calcio, mi perdoni. Ma prima o poi si candiderà lei al Parlamento, che ne so, ormai c'è solo il Parlamento qui. Oppure le piacerebbe fare il presidente di regione, che ne so, cioè cosa le piacerebbe fare in politica? No, a me al di là della soluzione dei problemi, abbiamo capito quello, però bisogna quella cosa più importante, però bisogna avere una carica per risolvere, bisogna avere una carica, ma guardi, ma la carica può essere frutto di un'elezione, può essere frutto anche di un'indicazione. Quante persone non sono state elette e ricoprono ruoli istituzionali? Qui sono in ballo, ci saranno prossimamente le elezioni politiche, quando saranno, che ne so, si voterà per la regione, si voterà per esempio il sindaco di Roma, lei lo farebbe? Guardi, io faccio un ragionamento di natura completamente diversa, che è quello di poter esprimere le capacità della vita che uno dimostra quotidianamente nell'attività di azione che c'ha, che poi chiama l'azione politica nel calcio, l'azione imprenditoriale nelle aziende, dando, portando avanti una soluzione di problemi che oggi attanagliano i cittadini. Sì, dice, ma lei parla solo di fatti teorici, ma il politico normalmente non è un buon amministratore, anzi quasi mai un buon amministratore, capito, proprio perché deve contemperare le esigenze del consenso e quindi spesso assume dei provvedimenti che non sono, come dire, cioè, bisogna, però secondo lei bisogna scontentare qualcuno? Ma cioè bisogna... c'è un detto che si dice, il medico pietoso fece la piaga purulenta, cioè quando tu devi incidere con il bisturi devi incidere. Io penso che in questo momento il paese abbia bisogno di grandi cambiamenti e come dire, e avere il coraggio di fare certe scelte che apparentemente possono essere dolorose, ma sicuramente devono prescindere dal corporativismo, devono prescindere dall'interesse particolare, guicciardiniano, e devono tradursi in un'azione di governo che sia finalizzata l'interesse collettivo, quindi per esempio, a premiare l'interesse della collettività. Sì, di ma tutti. Io non ho capito una cosa, allora, signor Presidente. Allora, Presidente, però io vorrei capire, per esempio, il prefetto di Perugia, c'è questa polemica, la faccio entrare subito nell'agone di queste, di queste cose. Il prefetto di Perugia che ha detto quella cosa lì, sulle madri, l'ha detto quella cosa lì, no? Sulle madri che non sanno riconoscere un figlio drogato, si dovrebbero suicidare, eccetera. Lei come la giudica quella cosa? Ha ragione o no? Allora, guardi, io faccio un ragionamento di carattere pratico, allora, perché la teoria, sicuramente, come atteggiamento, no? Esposto forse in modo violento alcuni concetti che poteva un'istituzione doveva evitare di farlo. Poi dopo c'è la sostanza dei problemi. Cioè? E mi pare che il prefetto parlasse come padre, non parlasse come prefetto. Cioè, da un certo punto di vista ha ragione, lei dice. Come prefetto, dicendo, ma se questi figli sono abbandonati e i genitori non si rendono, non scorgono neanche che sono drogati, dice, come puoi te poi portare avanti un'azione sana di sinergia tra la famiglia e le istituzioni che sono volte a prevenire certi fenomeni? Ma se lei avesse un figlio... E allora le dico questo perché ho sempre detto, mi perdoni, io ho detto sempre che si ricorderà che il calcio doveva essere didascalico e moralizzatore, sempre. Tutti ridevano su questa cosa. Molti ridevano. Perché prima c'era l'azione congiunta della scuola con la famiglia. C'era la sinergia, il ruolo dell'insegnante, poi c'era il ruolo degli oratori che facevano portavano anche una no, ma voglio dire, ha sbagliato questo prefetto o no, secondo lei? Ma non c'è un valore sbagliato, vedi, lei a rivolgersi in questo modo, ha sbagliato quelle madri che rimosso o no? Come io non ho sentito e non ho letto in modo autentico quelle che sono state le dichiarazioni, per cui non posso esprimere un giudizio. Io faccio un ragionamento di carattere generale, ho detto che se un padre di famiglia non si accorge che il proprio figlio si droga, significa che il padre di famiglia non è attento e che non segue le vicende premente della vita quotidiana del proprio figlio, perché se tu segui le vicende di tuo figlio ti accorgi anche dei cambiamenti. Senta, però prima dell'intervallo vorrei fare una domanda di calcio che sulla questione dei diritti di cui si sta discutendo, una cosa importante. Secondo lei ha ragione Sky quando dice di avere fatto un'offerta e che non ci vuole questa divisione tra, che sarebbe anche un po' politica, tra digitale terrestre e satellite? Cioè chi ha fatto l'offerta più alta vince, punto e basta, o no? Oppure Mediaset ha ragione quando dice che il digitale terrestre in sostanza poi deve andare? Ma guardi, qui vede, lei come al solito riporta il problema sempre sugli interessi particolari. Ma è quello, No, perché qui l'interesse sopra tutti c'è l'interesse dei cittadini, che tutti i cittadini devono avere l'opportunità di poter vedere la partita a costi anche più bassi. E dunque? E l'interesse quindi è della Lega, delle squadre. È giusto dividere? No, le dico questo. E io penso che l'interesse della Lega è quello della massimizzazione dei ricavi. E quello sta succedendo. Nel rispetto delle regole. Ho capito, questo è d'accordo. Allora, voglio dire, secondo lei, siccome alla base, ma qui non ci vede, voi cercate sempre di personalizzare. Alla base c'è che cosa? Una legge dello Stato italiano, ci sono delle linee guida, e quindi la Lega si deve attenere a questi dettagli. Mediaset ha ragione quando dice che il digitale terrestre deve andare a lei, in sostanza. Ma qui non c'è nessuno. Allora, torno a ripetere: non c'è nessuno. La Lega è autonoma. Prescinde da Mediaset e prescinde da Sky. Come va a finire secondo lei questa vicenda? Non lo so, perché l'assemblea è sovrana. Io non ho la presunzione di scegliere per conto per gli altri. Noi siamo 20 presidenti, i 20 presidenti diceranno liberamente e privi di condizionamenti. Ascolti bene, voglio dire a Parenzo alcune cose. Parenzo mi piace sia come uomo che come donna. Capito, David? Ma telefonano certi instabili, guarda. Allora, abbiamo con noi sempre il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che pare, sembra, abbia deciso di scendere in politica. No, anche se sonda il terreno, dai, sonda il terreno. Ha detto che è pronto un po' a spendersi per la politica, poi chissà. Cioè, però non ci vuole dire con chi gli piace di più, chi gli piace di meno, ma ha sempre votato a destra, Lotito, si sa. Presidente, lei ha mai votato a sinistra? Partiamo da qua. Ma scusi, ma la politica è espressione della polis, quindi ogni cittadino Vabbè, ma che vuol dire? Fa politica. Come che vuol dire? Ma certo, tutti noi facciamo politica, non c'è dubbio, allora, però lei ha votato sempre a destra o a sinistra? A destra ha votato sempre. Ma io voto, io voto i progetti, non voto la teoria. Voto i progetti e voto la qualità delle persone. Ha votato Berlusconi un sacco di volte, diciamo la verità, ma guardi che anch'io ho votato Berlusconi. Io voto, l'ho detto, torno a ripetere, i progetti che ritengo idonei nel momento. Ma oggi c'è un vuoto a destra, no? A destra c'è un grande vuoto. No, il vuoto c'è nelle istituzioni, non a destra. Vabbè, ma nel centro c'è Renzi con 40%. C'è Renzi che è presidente del Consiglio, ha preso 40%. Ma infatti il presidente Renzi ha raccolto un parecchio consenso. Non c'è dubbio su questo. Non c'è, tenga presente, sul 58%, perché c'è circa un 42% di assenso. Come in America, presidente. Sì, sì, ma adesso lasciamo perdere America. Io l'ho detto prima, è una novità positiva, Renzi, perché ha dato una scossa a un sistema che è dormiente. L'ho detto prima. E dall'altra parte chi ci può essere? Lei, per esempio? O no? No, non se la sente di dirlo. Ma io non dico, scusi, ma come fa a dire, come se io dicessi a lei, ma lei vuole fare il Presidente del Consiglio? È vero che in Italia tutti vogliono fare il Presidente del Consiglio, appunto, tutti gli allenatori della nazionale, tutti. Socrate diceva una cosa, gnoseis auton, conosci te stesso. Ma se lei, allora, uno potrebbe dire... Stesso, deve capire, allora, però dopo, oltre ad avere la cognizione delle proprie capacità, queste capacità ti devono essere riconosciute, perché altrimenti allora ognuno farebbe... Ma lei pensa di averle, no? Però? Pensa di avere le capacità? Ma questo non sta a me, non posso fare valutazioni, le devono fare gli altri, mi perdoni, per avere il consenso, sono gli altri che ti devono dare il consenso, che te lo dai da solo. Però l'autostima, l'autostima ti consente chiaramente di avere sicurezza, ma non ti consente ad avere il consenso, no? Scusi un attimo, ma uno può dire, ma se in tanto tempo non è riuscito a mettere d'accordo i tifosi della Lazio, come può mettere d'accordo il paese? Come può fare politica? Però posso dirle una cosa, forse non ho messo d'accordo i tifosi della Lazio, però sto riformando il calcio. E guardi, se c'è un consenso vasto nella Lega di A, significa che forse riesco a trovare... Come dire, a far condividere. Anche abile nelle trame, è abile nelle trame. Ma no, ma non è, vedi, lei parla sempre in forma, nell'accezione negativa. No, che negativa, positiva. Positiva, negativa, figuriamoci. È inteso come condivisione di scelte, sì, finalizzata all'interesse comune. Questo è il mio motto. Senta, presidente, ma io assolutamente non coltiva l'interesse personale, poi alla fine il consenso non ce l'ha. Io guardi, sono uno dei pochi che l'ha difesa nella questione dei tifosi, lo sa benissimo, per cui non ho nessun pregiudizio nei suoi confronti. La cosa che le voglio chiedere è questo: lei in tutti questi anni col calcio ci ha rimesso dei soldi o ci ha guadagnato? Una domanda molto secca. Io dico secca, semplice: io non ho guadagnato assolutamente. Ci ha rimesso. Perché assolutamente, da un punto di vista di ritorno, sicuramente sì. Quanti soldi ci ha rimesso? Ha fatto un calcolo? Ma non ho fatto un calcolo, sicuramente ho tralasciato le mie aziende per dedicarmi. Ma lei immagini che io ho preso una società che fatturava all'epoca 84 milioni, sì, ne perdeva 86,5, perdeva l'anno più di quanto fatturasse, sì, e aveva 550 milioni di debiti, sì, di 9 anni fa, 1070 miliardi di debiti. Sì. Ho messo 150 miliardi personali per prendermi 1070 miliardi di debiti. Dopodiché oggi è una società che è una delle poche società che esce inutile. Dunque lei potrebbe fare il ministro dell'economia, per esempio, molto bene, sarebbe in grado. Io non dico quello che posso fare. Io dico quello che ho fatto, perché le persone vanno a misurare per quello che ha fatto. Ma allora, quanti soldi ci ha rimesso dei suoi? Cioè, fino adesso il calcio per lei è stato un salasso dal punto di vista personale? Ma personale, io l'ho detto, perché ho trascurato. Scusi, la perdita di denaro e anche il mancato guadagno. Appunto, il mancato guadagno per uno che non guadagna non è un problema. Avrebbe guadagnato molto di più se non avesse fatto il presidente della Lazio. Certo, assolutamente sì, su questo non c'è il minimo dubbio. Senta, un'altra cosa, ma lei ha mai... c'è sempre una questione che non viene mai affrontata, che è la questione del coming out dei giocatori omosessuali. Lei ha mai incontrato un calciatore omosessuale nella sua storia? No. Nella Lazio assolutamente o perlomeno non ho avuto contezza di Ma secondo lei ci sono? Sì. Ma scusi, in tutti gli ambienti ci sono scelte, come dire, personali, e come tali scelte personali che non possono neanche essere biasimate, perché io sono per la tolleranza. Lei è per i matrimoni? Per la libertà. No, io sono sicuramente per il rispetto dei diritti delle singole persone. Però i matrimoni no, diciamo, i matrimoni no. Ma io sono un cattolico praticante, quindi religioso, quindi sicuramente non posso condividere una scelta di questo tipo, no? No, e le adozioni, figuriamoci. Prego? Le adozioni tra gli omosessuali, figuriamoci. Beh, io ho il concetto della famiglia, quindi la famiglia ha chiaramente un cliché, non dico convenzionale in quanto come elemento stereotipato, un cliché tradizionale. E quindi, per cui un bambino cresciuto da due uomini o da due donne, secondo lei è una cosa impensabile? Ma è una cosa sicuramente che non porta grande equilibrio al bambino, che poi diventa adolescente, poi diventa giovane e poi diventa chiaramente adulto. Cioè gli manca una componente, no? Gli manca la componente del padre o della madre a seconda delle situazioni. Ma questo la vedo da punti, questo le posso dire, questo è un giudizio mio di carattere psicologico. Cioè in che senso psicologico? Nel senso che i bambini... Sulla tenuta psicologica di una... Scusi, mi perdoni. Un bambino, dice lei. Torno a ripetere, l'equilibrio di una non a caso noi oggi stiamo purtroppo avvertendo tutta una serie di disagi sociali che nascono proprio dallo sfaldamento della famiglia, perché se le famiglie fossero più presenti, alcune situazioni di disagio come la droga, l'alcolismo, il tabagismo, la prostituzione, tutto, sicuramente... Io la legalizzerei la prostituzione, figuriamoci un po', io farei riaprire le case chiuse alla grandissima, Presidente. Io le case chiuse le riaprirei, guardi. Introiti, soldi, lei che è un uomo che sa far di conto, non porterebbero un sacco di soldi allo Stato o no? Ma sicuramente da un punto di vista dell'immagine sarebbe forse meglio, perché uno non vedrebbe questo mercimonio per le strade, né per le strade, soprattutto ci sarebbe il controllo sanitario, esatto. E non ci sarebbe lo sfruttamento. Però, o comunque. Poi questa è una, come dire, una visione che deve essere metabolizzata in un sistema del 2014 rispetto a situazioni antecedenti, ma io penso che i processi di maturazione si può fare. Ho visto Papa Francesco che ha dato una grande scossa. Vabbè, ma al di là di Papa Francesco, io la riapertura al di là il Papa Francesco ha avuto la capacità e il coraggio di, come dire, sollevare alcune criticità di alcuni ambienti. Io per esempio la droga leggera la legalizzerei. Gli spinelli. Su questo io non sono d'accordo, perché io penso che tutto ciò che va ad alterare gli equilibri di una persona diventa... Sia da combattere. Cioè, se suo figlio le dicesse un giorno, se le avesse detto, perché lei c'ha i figli grandi, se le avesse detto un giorno, non so, papà mi faccio uno spinello, lei che avrebbe fatto? L'avrei dissuaso. Vabbè, d'accordo, però concretamente nulla. Persone... Non è che avrebbe... No, avrei fatto in maniera di... Non è che avrebbe preso a schiaffi. Smettere. Di farlo, sicuramente non è che sarei stato contento, no? Vabbè, sì, ma uno avrei fatto tutto per prevenire certi fenomeni e per mettere la condizione di non ripeterlo più. Comunque, lei è perfetto per il centrodestra, Presidente, con quello che dice, mi sembra di aver trovato. Ma un... no, vede, lei sbaglia che partito. Dà etichetta a centrodestra e a centrosinistra, sbagliato, perché i comportamenti delle persone non hanno connotazione politica, hanno connotazione, come dire, morale e anche deontologie, se appartengono a alcune categorie. Sì. Comunque il nome Forza Italia è già occupato, Presidente. Ma no, il nome Forza Italia è già occupato. Ma io non voglio scattare. Può fare Italia Forza, forse. E non ho neanche l'ambizione di farlo, quindi questo. Senta, Candreva, ce lo conferma che non si vende assolutamente al 100%. Non mi risulta che Candreva sia in vendita. 100%? Ma 100% c'è solo la morte, lei lo sa, è l'unica certezza. A quanto vale? Poi chiudo. Quanto vale? Come so? No, ma se non ho messo in vendita, come faccio a sapere quanto vale? Il valore di mercato di una persona lo fanno le offerte. Ma quanto vale? Diciamo 30 sono pochi o sono tanti? Ma 30 per 30 milioni non lo vendo. 30 non lo vendi, cioè vale 50, vale? Ma non mi sono spiegato, se non sta in vendita non lo vendo, no? Quindi quando poi dopo nella vita ci stanno pure le proposte indecenti. Le proposte indecenti poi uno le esamina al momento che arrivano. Solo per una proposta indecente lo vendo. Si può dire? Sì. Solo non lo vendo, ho detto. Solo per una proposta indecente. Ma scusi, ho detto non lo vendo, non è invece. Io le ho chiesto. Non cambi, perché lei è troppo arcuto e quindi dopodiché dico solo le proposte indecenti possono essere oggetto di valutazione. E poi, di valutazione. Se arriva una proposta indecente, vediamo. Vediamo. Ma ho detto non è in vendita. Lei c'ha una casa sua, no? Che non vende. Sì. Gli arriva uno e gli offre 50 milioni, dice no, è una sono semplicemente una vendo. No, non dica. Aspetta, aspetta, lei ha detto una, lei ha detto un'altra cosa. Davanti a una proposta indecente, riflettiamo. Se ho, detto un'altra cosa, ho detto un'altra cosa, e quindi non lo vendo. Ho detto non è in vendita. Quindi se non è in vendita, non è ho detto, poi ci sono le proposte indecenti. Esatto. E quindi, ma le proposte indecenti, scusi, mi perdoni, se arriva uno e offre un miliardo, che fa? O vende, che andreva? Beh, un miliardo no, no un miliardo di euro sì, certamente. Però allora 50 vedi, milioni lo vende tutta la vita, 50 milioni lo vende, dai, su, ma come non si vede? 50 milioni si vende. Vabbè, presidente, a presto. Abbraccio. Ma dipende, posso dire una cosa? Sì. Dipende da quelle che sono le esigenze della squadra al mondo. Vabbè, certo, quello sempre. Però 50 milioni si vende, su. Cioè, quella è indecente. Che cos'è una proposta indecente? 50? Una, no, la proposta indecente è una proposta al di fuori di, una, di un processo di razionalità, E di mercato comune. Di cioè, mercato significa, comune. Cioè significa se tu c'hai un oggetto che vale 100 e ti offrono un milione, quella è una proposta indecente. Va bene, l'Italia dove arriva, presidente? Mi auguro che arrivi il più lontano possibile. Però, concretamente? Concretamente domani si concretamente si deve dimostrare sul campo proprio il tutto valore, anche perché il valore della squadra non si può contestare, si tratta di saperlo esprimere sul campo. Con la con l'Inghilterra l'hanno dimostrato, con gli altri, con l'altro, speriamo che lo facciano adesso nella partita contro l'Uruguay. A presto, arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza. Un bacino grosso e un abbraccio forte. Allora ciao, ragazzi, ciao. Andiamo con Marco da Perugia. Marco da Perugia. Pronto? Vai. Sì, ciao, ciao Cruciani. Dimmi. Ciao Parenzo. Ciao. Una piccola appunto, un prefetto di una città che dopo non so quanto tempo stia qui da noi, non conosce ancora il nome della via principale, che non si chiama Corso Vannucchi ma Corso Vannucci, sì. Dovrebbe poi lasciare un po' perplessi su quanto da un anno che è lì, ma è una delle componenti della follia di questo intervento, cioè, esatto, questa è la esatto. realtà, dai. Cioè, questa è la prima, poi altra cosa, dovrei immaginare che questa storia delle notti folli perugine fosse passata, fosse cessata dopo un po' quello che era accaduto con l'assassinio di, sì. di Meredith. Sì, ma detto, il punto, sì, ma il punto non è le notti perugine, le cosa ma succede è una città a Perugia. Universitaria, è conosciuta da tutti. Non sì, è ma il punto non è quello. Questa. Il punto è il punto sono le frasi di questo, le frasi e il modo in cui sono state dette queste frasi da parte del prefetto. Non commento il fatto che lui abbia parlato in un italiano a dir poco. Come dire, un po' superficiale, diciamo così, ma il fatto che comunque sia indichi come la via principale di Perugia, che è conosciuta da tutti, mi sì, immagino che sì. la conosciate anche voi, come avendo no, frequentato certo. in alcuni momenti, e la chiami Vannucchi, lascia poi un po' Vabbè, perplessi sì. su quello che dice successivamente. Ho capito, Marco, grazie. Sara da Udine, Sara, buonasera, dica. Oh, io sono qui per dire a gran voce, urlarlo, che Dell'Utri non deve avere quel cazzo di libri, scusate, perché lui ha chiamato la Zanzara, se non sbaglio, o un altro programma, non ricordo, dicendo che per lui i libri sono la vita, che lui in carcere si fa una vacanza perché finalmente può riposare e studiare le cose che non ha mai studiato, e scusate, ma non è un povero disadattato che viene da un contesto socioculturale degradato e dunque e in carcere perché non ha avuto opportunità dalla vita. Dunque? Non deve avere quei libri. Non è lui la persona che deve avere quei libri. Ah, cioè uno non può avere dei libri in più, non può avere dei libri in più in carcere. No, non ne deve avere, non deve, deve scontare la sua pena nella noia, nella tortura psicologica che la mancanza di libri gli fornirà, perché lui riceve un vitalizio e c'è gente che ha avuto un sacco di problemi nella vita e ha avuto un sacco di ingiustizie da sì, ma non è che ha chiesto, scusa, certo, avrà più libri, vi do questa Sara, notizia, Sara, lei sta dicendo che deve subire carcere... deve subire una tortura psicologica, cos'è che deve subire? Carcere, perché il carcere non è una vacanza, il carcere. Ma chi ha detto che è una vacanza? Ma non ha chiesto una stanza extra large. Sara, non ha chiesto una stanza extra large, non ha chiesto l'attico del carcere di Parma, ha chiesto di avere due libri in più. E li avrà. Esattamente. veramente, se lui ha bisogno dei libri e presume e ritiene che avere dei libri per lui sia rendere il carcere una vacanza, lui non deve avere vacanza. Libri, punto. Ma che c'entra i libri con la vacanza? Non ha chiesto un attico, non ha chiesto dei privilegi, ha chiesto... Lui ha detto che per lui il carcere è un anno sabbatico. Ma questo l'ha detto prima di entrare in carcere, l'ha detto prima di entrare in carcere, e poi che c'entra questo? Scusi, cosa c'entra? Lui può leggere, ha detto lui stesso che per lui il carcere è una passeggiata, bene, lui non li deve avere i libri. Ma che c'entra il fatto che ha detto che è una passeggiata col fatto che non deve avere i libri, scusi? Non ho capito cosa c'entra. L'ha detto lui che per lui è il carcere è un'ottima occasione finalmente per leggere. Appunto, è coerente al limite è coerente, no? Al limite è coerente perché ha detto un'occasione per leggere, bene, dategli i libri. No, no. A me della sua coerenza non interessa, a me interessa del fatto che è un delinquente. A lei interessa la sofferenza. Cioè deve soffrire. E per lui la lettura dei libri non è assolutamente un fatto rieducativo. Deve soffrire e non avere libri, giusto? Assolutamente. Benissimo. Sì. Ma lei è disgustosa. Lei mi fa orrore. Non rubo, non sono delinquente. Ma che c'entra? Ha chiesto dei libri, su, adesso sono stato zitto fino adesso. Lei mi fa orrore. Lei è una persona che mi fa orrore. Beh, a me fa orrore che una persona del genere consideri il carcere una vacanza. Ma era una battuta. Ma che cazzo c'entra? Ma l'ha detto lui con sbruffoneria. Ma spero che ci vada a finire lei in galera. Guardi, spero che ci vada a finire lei in galera. La ringrazio e allora ricambio di coltrettanto. Traffico. Prego. No, è andato il traffico. Quando è andato il traffico? È andato. Mi sono scordato. Vabbè. Massimo da Firenze, dai. Buonasera Cruciani. Dimmi, dai. Stasera mi meraviglia il suo garantismo nei confronti. Non c'è di nessun tutti. Garantismo. Che c'entra il garantismo col fatto dei libri? Scusi. Cruciani, mi scusi, permetta. Due settimane fa, in via dello scandalo Mose, ha chiamato Sgarbi, ne ha dette di tutte su Garan e di più. E lei infatti ha fatto notare, sentito, ha fatto, a parte che lei non capisce la tecnica che si usa in questa trasmissione, ma comunque questo è un poco male. Poco male perché chi se ne frega. Prima cosa, seconda cosa, io non ho fatto, ho detto che proprio da Sgarbi, che è sempre stato garantista, non me lo sarei aspettato, ma in questo caso c'è una rivalità profonda, punto e basta. Poi? Nulla, dicevo questo qua, che da Parenzo, coerente con la sua linea del PD, mi aspetto che abbia oscurato la notizia dell'emendamento per l'immunità proposta nella riforma del Senato, e questo me l'aspettavo, perché essendo del PD sono rimasto un po' deluso da questo atteggiamento suo, un po' incoerente. Ma di quale PD? Io non ho detto assolutamente nulla sul caso Galan ancora, non ho detto assolutamente nulla. Ho detto che è normale che un processo come questo, siccome i parlamentari si dovranno esprimere, ma guardi, non ha detto nulla dello schifo della proposta che ha fatto la Finocchiaro con Calderoli per quanto riguarda l'immunità. Ma come fa a sapere cosa penso io se non abbiamo parlato? Come fa a saperlo lei? Non ha parlato, e questo è il punto. Ma non abbiamo parlato, abbiamo affrontato altre cose. Se vuole sapere una notizia del genere, che dovrebbe essere lo strillo principale, io penso che non abbia alcun senso l'immunità al Senato, così come è stato ridisegnato il Senato. Ha detto che siamo una banda di soci che si protegge l'un con l'altro. Si purtroppo il PD è diventato questo, sì, si proteggono l'un con l'altro, a partire dai media che non danno risalto alle denunce in modo obiettivo e a tutto il resto, e questo è il guaio dell'Italia, è l'informazione è diventata di regime. Di regime, sì. Quale regime, scusa? Di regime, ma lei ha sentito cosa ho detto? Sono contrario all'immunità al Senato. È un regime mascherato da democrazia, a partire da Napolitano. Ci sono i carri armati fuori, apre la finestra e vedrà tutti i carri armati fuori. Così non sarebbe mascherata da democrazia, se ci fossero i carri armati sarebbe un colpo di Stato dittatoriale, stop militare. No, non ci sono i carri armati, peggio, ci sono giornalisti come lei, Parenzo, che assecondano ogni male fatta, pur di avere l'ingraziamento del governo. D'altronde, io capisco. Lei ha capito cosa ha appena detto? Vabbè, no? Niente, no. Non ha capito che siamo tutte e due contro l'immunità. Ma non capisce mai nulla nessuno, solo niente. Voi siete fonte. No, ma basta capire le parole. Infatti, tutti quelli la pensano diversamente da lei sono grulli, sono razzisti, sono. Dipende. C'hanno di tutto. L'unica fonte di sapere e di obiettività è David Parenzo. Non l'ho mai detto. Vabbè. Questo, ma non importa. Il suo atteggiamento lo si ma lo se fa, lei mi crede un'opinione, io le do un'opinione, poi le posso dire un fatto, ma i fatti sono una cosa e le opinioni un'altra. E i fatti sono? Vabbè, infatti sono che lei è disturbato, dai. Ma guarda che perché non capisce, lei è disturbato. Se mi chiede l'opinione sul Senato e l'immunità, le dico che secondo me il Senato, così come lo hanno ripensato, non ha bisogno dell'immunità. Se vuole ne parliamo. Secondo me, la mia modesta opinione, questa. Va bene, vai, Diego da Palermo, dai, forza, Diego da Palermo. Sì, pronto, pronto. Dimmi, dai, dimmi. Sì, sì, salve. Una cosa volevo dire, intanto sono indignato proprio per sentire che la Finocchiaro praticamente ha firmato questa cosa. E in questa cosa sento adesso lei nega, Parenzo in realtà, che parla... Scusi? Lei nega in realtà, Cosa nega? Le nega di essere stata quella che sì, ha proposto l'immunità. Ma sì, però, guardi, questa storia dell'immunità è una cosa ridicola, tanto è una cosa che non si farà mai. Cioè, stiamo parlando del nulla, del nuovo Senato, dell'immunità per il nuovo Senato. Poi di che tipo di immunità stiamo parlando? Di quella che è stata abolita? No, o dell'arresto? C'è la Camera. Cioè, per l'arresto. Cioè la per richiesta, la... è la stessa procedura che la stessa procedura mettere, che c'è. La stessa procedura che c'è alla Camera, io dico, cioè io dico la richiesta... Una cosa, posso parlare? Sì, sì. Io dico una cosa semplice. L'altro giorno il Bergamasco ha ammazzato almeno... sembra che sia lui, comunque lascio perdere subito. Vabbè, che Parenzo ha fatto il patto e si è rivoltato con la Lega perché difendono i bergamaschi, eccetera, eccetera. E adesso che succede una cosa del genere, invece non dice niente. Io sono indignato. Su che cosa? Non ho detto niente, non ho capito, scusa. Non si capisce, sull'immunità, su vabbè. Che cosa? Un attimo solo, c'è Vittorio Sgarbi. Vittorio, ciao. Vi aspettavo, ero qua a Urbino che aspettavo. Ma Corbino, non devi andare dalla Gruber stasera? Sì, ma mi collego da qua. No? Pensavo che facessi lo scontro con D'Agostino dal vivo, invece... No, ho pensato che tutto sommato era meglio, se lo scontro ci deve essere, farlo a distanza, altrimenti ci scaffeggiamo ancora. Ancora quindi, no. Quindi perlomeno sarà solo verbale. Ma no, figuriamoci. Non sarà. Siete diventati due agnellini. Due ireni ci siete. Siete diventati due agnellini. Lui no. Siete voi gli eredi della violenza. No, però voi. In realtà lui è diventato molto più cattivo di te, secondo me. Cioè lui, D'Agostino, è diventato più cattivo di te. Cioè, alla fine. Senti, ma perché difendi questo prefetto di Perugia che secondo me è indifendibile? Facciamo un po' di battaglia. Perché... Prima di tutto lo conosco. È una persona, è mille volte meglio di Alfano. Addirittura. Alfano, anch'io ho detto si è forse dimesso per avere rivelato che c'erano le tracce di quello che ha ucciso Iara. E poi, quello che ha ucciso Iara, qualcuno l'ha condannato? Però ho visto gli interni così idiota che fa una indiscrezione a danno della procura e indicando un colpevole che non è colpevole deve dare le dimissioni subito, quella c'è di merda. Cioè come si permette? Prima con il caso della casacca, sì. Un idiota che non sa una cosa così importante, tra l'altro vi l'ho detto alla volta a Porro, ma potete farlo voi, di intervistare l'ambasciatore Casaco, che è una persona straordinaria, non è mai stato ricevuto né da Bonino né da questo idiota di Alfano. Sì. Gli hanno fatto, evidentemente ha chiesto una cosa, giusto o sbagliata che fosse, l'ha chiesto per conto del suo governo. E questo coglione non riceve l'ambasciatore Casaco e nasce il casino che è nato con questa signora che è stata estradata. Vabbè, tu dici il gaffer Alfano. Cosa ha detto? Questo ha detto una metafora che è identica, lo scrivo oggi sul giornale, a asfaltare e a rottamare, perché si rottamano i rifiuti, non le persone. Allora, se uno dice suicidare, potrà essere una metafora, ed è sicuramente una metafora. La metafora suicidio vale fallimento di una famiglia che non è riuscita a impedire che il figlio si drogasse, ma quando tu sbagli qualcosa, diciamo, mi suicido se sbaglio, è una battuta, è un luogo verbale, non un luogo reale. Guarda, se hai visto il video, ma come non dice cose sbagliate? Detto dice cose più della trasmissione, dice vero? Cose sbagliatissime detto, per il gusto di attaccare a Fano. Lo conosco, guarda, lo dico, io sono stato con lui, Gualdo Tadino, è un napoletano molto simpatico, ha lavorato fatto, tra l'altro in posti anche molto a rischio. Gli ho chiesto, a Perugia probabilmente l'unica cosa grave per un prefetto è la droga, e su quello si è applicato, ma sicuramente la battuta è una battuta che fa riferimento non a un'incitazione al suicidio, sì, sì, o a un'indicazione, ma all'idea del fallimento. Se io fallisco mi suicido, io fallisco Radio Belva, come si chiamava, mi suicido, ma è una battuta. Magari vi fosse suicidati veramente voi due stronzi, cornuti, Pinocchi, rotti in culo. Invece è questo che però dico, scusami, adesso, Vittorio, come fai a difendere, come fai a difendere uno che dice a una madre se non sei riuscita? Ma non è una madre, è un'astrazione, sto dicendoti, è come rottamare. Rottamare non è detto a Rosi Bindi, esatto, ma è un'indicazione negativa rispetto a una classe politica che ha colpa solo di essere vecchia, perché D'Alema e Veltroni forse non sono peggio di Renzi, sono più vecchi. Vabbè, rottamare, non è personalizzato nei confronti di nessuna, sì, non di una persona. Il fatto stesso, sì, che tu sei Parenzo, il fatto stesso, tra l'altro, sei veramente, sei d'accordo, Cruciani, con Parenzo, sei... io già mi preoccuperei, tu già sei mi preoccuperei. Sai che sei un razzista, Cruciani, perché in apertura di trasmissione hai anche criticato, certo, il prefetto, certo, perché parla in campano, ma è veramente, certo, ma è una cosa indegna. Il prefetto è l'ultimo che lo può cacciare, no, quell'idiota di Alfano. Alfano deve cacciare se stesso. Uno che ha fatto la cosa di Iara ha fatto una cosa individuale, precisa, e molto peggio di quella di questo qui, perché quella di questo qui è una cosa astratta e quella di Iara è una cosa precisa. Se poi questo è innocente, io dico, finalmente l'ho beccato Cruciani che ha ucciso Iara, poi non l'hai ucciso tu. Questo, no, ma questo, su questo Alfano, su questo siamo d'accordo, su questo siamo d'accordo. Certo. Questo, siccome Alfano però se lo caccia, no, almeno che lo chiami. Sì. Oltretutto quella conferenza stampa che ha fatto l'ha fatto, sì, probabilmente nel moto d'animo di chi vede che c'è una questione grave a Perugia, su cui i genitori, sì, non sono abbastanza sensibili, perché sono perdonisti. Io lo so, perché mi è capitato un giorno di trovare a casa mia un ragazzo che prendeva la droga in bagno, l'ho preso per i capelli, l'ho chiamato suo padre, gliel'ho portato, suo padre lo giustificava perché non ci voleva credere. Allora esistono queste fattispecie che un prefetto indica, non dicendo io non voglio aiutare i genitori, ma i genitori sono i primi a aiutare noi, sì, tutto sommato, lo dice male. Lo dice male, lo dice in maniera offensiva, lo dice in un dialetto stretto napoletano che secondo me un prefetto non dovrebbe, dai, su, Vittorio, proprio tu. Ma così che parlava sardo? Sì, ma non parlava sardo, non parlava sardo. E Demita, scusa, come parla Demita? E Demita, appunto. Sì. Ma poi leggete Merlo, che c'è un razzismo contro questo, l'articolo di ieri di Merlo, sì, indica una colpa ontologica, come se fosse colpevole perché non ha mai fatto giustamente le funzioni di un prefetto che deve rappresentare lo Stato. Ma chi non rappresenta lo Stato? Alfano? Galan? Attento al GDT, sai? Allora, per fortuna abbiamo ancora Sgarbi in collegamento, però c'è Luca da Roma che vuole dire una cosa. Luca? Sì, eccomi. Dimmi. No, volevo dire, nel senso, prima di tutto buonasera, volevo dire, nel panorama politico italiano, cioè, si sente proprio il bisogno di uno come Lodito, proprio ne sentiamo proprio il bisogno forte. Poi le dotte citazioni di livello elevatissimo, siamo veramente, come dite voi, al top. Che vogliamo fare? Proprio, cioè, lì proprio anche poi lo spirito di servizio, il riferimento allo spirito di servizio veramente mi ha fatto tremare le gambe. Che vogliamo fare, Luca? Siamo messi così, che dobbiamo fare? Questo è, no, ma poi la citazione su Socrate, quella è proprio veramente elevatissimo. Vabbè, proprio. Grazie. Allora, Vittorio, voglio sapere una cosa, ma al di là del prefetto di Perugia, sarà rimosso o non sarà rimosso? È incredibile. No, che è stato rimosso. Sì, io l'ho chiamato ieri. A parole è stato rimosso. A parole. Ma l'atto di Alfano è un atto di sottomissione a Renzi per essere l'utile idiota di una persona che ha manifestato la sua rabbia, ha detto era furente contro questo signore. Lui, tra l'altro, più colpevole di Alfano perché è quello della rottamazione. Quindi da questo punto di vista la parola rottamazione. Però è diverso, quello fa il politico e quello fa il prefetto, è diversa la cosa. No, quello no, è un ruolo... era il sindaco di Firenze quando lo diceva, quindi ruolo assolutamente paritario. Appunto, però ma non è paritario, quello è un funzionario dello Stato per sempre. Sono... Comunque, sì, guarda, ma non è che l'ufficiale dello Stato deve avere un temperamento, può essere chiamato ad avere maggiore disciplina dal punto di vista verbale, ma gli fai un monitor. Il fatto che tu, no, cacciarlo non lo possono cacciare perché è un funzionario dello Stato e dunque non lo possono cacciare. erano nelle riserve, pagandolo per non fare più ma nulla. Ma sì, 62 anni, questo qua ha fatto tante cose. È un po' cose. Assurdo che insomma sindaci che gli hanno scritto lettere ricordando il ruolo che lui ha avuto, quello ma che ha fatto. Ma una cosa però. E per una frase strapolata più, così. Sembrerebbe più una cosa da difesa di Cruciani che non di Parenzo. Mi pare che avete ribaltato le parti, perché Parenzo è un po' più conformista all'apparenza. Tu sei più bizzarro, la parola suicidarsi in senso metaforico vuol dire aver fallito. Certo. Io non in termini diversi. Ma certo che non voleva, che io immagino che non volesse il suicidio di una madre. Ma ho capito, ma le parole qualche volta sono importanti, lo sai meglio di me, no? Ma sono importanti se hanno un riferimento diretto alla cosa. In questo caso è tutto metaforico. Comunque a me era generico, anche quel dialetto mi ha dato fastidio, che vi devo dire? Mi ha dato fastidio uno che parla così, uno che parla in quel modo sguaiato dicendo ecco, non siamo mica magistratura, polizia. Non è che sono i badanti, non è che fanno i badanti, ma quello lo possono io al bar. Non il prefetto di Perugia, non il prefetto di Perugia, cazzo, non il prefetto di Perugia. Senti, ma la diamo qualche attenuante a Galà? Il fatto comunque che sei d'accordo con Parenzo è incredibile. Il fatto che sei d'accordo è incredibile. Siamo arrivati fino a qui. La dai qualche attenuante a Galà? Qualche... No, perché la sua teoria è che nessuno gli ha dato i soldi. Beh, giustamente, glielo dati a qualcun altro che glielo dati a lui. Il dato di fondo di Galà è che è impossibile che uno che lamenta di non avere soldi restauri una villa che non è del 300 ma del 700 in quelle condizioni in cui ha fatto un intervento sicuramente importante che si è valutato intorno a 1,7 milioni 2 milioni di euro con i soldi che ha come cioè mente, governatore mente, regionale sta mentendo. È evidente, a parte le barche, le macchine, quelle possono anche essere, ma la casa in sé, il valore di 1,7 milioni euro non si dà neanche in 15 anni di esercizio di governatore che lui ha fatto, quindi da qualche parte li ha avuti, che poi dica che gli è andati a degli altri e non a lui, comunque lì sono finiti perché il restauro è stato fatto e quello urla contro di lui, oltre alla sua faccia, oltre a quello beh, che la ha faccia, fatto. Sai, la faccia. Beh, la faccia, io posso dire una cosa, quando questo lo racconta un libro sul Veneto, sì. Tanti anni nel 99, fece una polemica con lui, quindi molto tempo fa, oltre all'ultima in cui ho fatto il saluto Berlusconi perché l'ho nominato presidente della Commissione Cultura, perché lui fece la campagna promozionale per le liste di forze europee, io ero candidato, e lui indicò le preferenze a Berlusconi e alla Sartori, anche lei agli arresti domiciliari, che era una cosa folle, sia pagare con i soldi della Legione la campagna di Forza Italia, sia oltretutto farla non per il partito di governo, ma per due persone soltanto, quindi già questo è ragione di un abuso di un potere per finalità personali, cioè per indicare quello che lui, tra l'altro lei perse e poi fu recuperata perché si mise Berlusconi, e lui era contro Brunetta e contro me, io presi 100.000 voti, Brunetta 50.000, la poveretta 20 ed entrò soltanto perché, quindi già questo comportamento che mi mise contro di lui era la prova di sua visione privatistica del potere, e certamente tutto quello che ha fatto e i vantaggi che ha avuto dipendevano dalla condizione di governatore che poteva dare o togliere vantaggio. Beh, ma tu hai già detto che con lui non sei garantista, per cui... No, non sono garantista, gli fa schifo, fisicamente, umanamente. Se gli fa schifo, gli fa schifo, c'è poco da fare. Vabbè, ciao Vittorio, a presto, vai. Ciao. Guardate 8:30 adesso. Meno male, non bemenate, se non bemenate che guardiamo a fa. Dai, su. Non è moleste moschito. Marco, provincia di Ancona, Marco. Ciao Giuseppe, io chiamo perché voglio fondare ufficialmente un fan club per l'ascoltatrice di prima, adesso non ricordo il nome purtroppo. Quella che non vuole dare i libri a Dell'Utri. Esatto, assolutamente. In tanti aspetta, fallo parlare. Allora, sta a sentire, no, innanzitutto perché quello che ha detto è logico, è sensato, era preciso, non faceva una piega, tant'è che credo abbia messo in difficoltà, perché l'unica reazione alla fine appunto è stata quella di urlargli vai in galera, vacci tu. Perché in realtà qui in Italia nessuno rispetta le regole, ci sono delle regole. Nessuno ma è un regolamento sbagliato. Io non so se ci sono queste regole. Certo che ci sono, come perché no? Perché se ci vado io. No, questo è ma vero. È sbagliato anche per lei. Questo è vero di fondo. Se ci sono dei limiti, è vero. Un appassionato della PlayStation, se va in carcere voglio usare la PlayStation. Una cosa sono i libri, una cosa la PlayStation. Ma perché non sapete nulla di carcere, nessuno dei due? Parenzo, scusa un attimo. Io sono stato in carcere un sacco di volte. C'è una cosa che è vera. Io ho protestato. Sì, vabbè, lascia perdere. Le due inchieste sul carcere non ce ne ha fatto una mazza. E allora dici solo stronzate perché non sai le cose. Calmo, c'è un regolamento carcerario. Stai tranquillo. Ma stai tranquillo perché devi fare solo spettacolo. Allora devi sapere che c'è un regolamento carcerario. No, perché tu che fai invece? Informazione. Io fai sì, tu. Alle volte sì. Non è che mando sempre tutto a puttane. Per io non sto mandando a puttane, così sto parlando. Sul carcere Dell'Utri, se si rende protagonista, lui che è famoso, ma di che una battaglia perché le persone, perché i detenuti. Ma se ci sono delle regole in questo più momento. Libri, se lui si rende protagonista di una battaglia per rendere insensata una norma che oggi prevede dal regolamento carcerario il fatto che tu non ti puoi portare più di tot libri in carcere, d'accordo? Sì. Se lui che è famoso d'accordo? Esatto, diventa protagonista di questa roba, ben venga, ma non perché è dell'utile, capito? Sì. Oh. Adesso sì, andiamo avanti con lo spettacolo. No, ma va benissimo, va benissimo il fatto di esatto. cambiare dei regolamenti che non funzionano. Sto dicendo semplicemente una cosa. Se le regole sono queste, se le regole sono queste, queste, è evidente che se tutti quanti chiedessero di portare tutti i libri che vogliono, sarebbe un inferno. Sarebbe chiaramente un inferno. Non c'è preparazione per una cosa del genere, per richieste di questo tipo. Sarebbe chiaramente un delirio. Dunque, dice l'ascoltatore, non bisogna fare norme ad personam per deludere. Giusto, Marco? Cioè, è troppo comodo farla adesso che lui sta dentro. Cioè, voglio dire, sono anni che chi lavora nel carcere chiede di cambiare questa roba. Ma l'idea di fondo è, come al solito, che in Italia anche il comunque nessuno lo farà, guardi, non succederà, Marco. L'hanno già fatto il direttore del carcere di Pavia, è quello che stavo cercando di spiegare, di Parma, quello che stavo cercando di dire già un'ora e mezza fa. Che ha fatto? Pare abbia già concesso a Dell'Ute che si può portare qualche libro in più. Già oggi credo ne abbia 15. Non è un dramma, non è un dramma. Questo tanto per... Vado a stare svegli. Abbiamo qui il segretario generale del COISPIL, sindacato indipendente di polizia, Paolo Maccari. Buonasera Maccari, grandissimo, come sta? Bene, ho cambiato nome, mi chiamo Franco. Come Franco? Ma hanno scritto Franco, hanno scritto Paolo, non so perché. Soliti errori. Franco Maccari. Franco Buonasera. Maccari, benissimo. Maccari, allora, io sulla vicenda di Alfano che ha rimosso questo prefetto, lei che ne pensa? Cioè, pensa che sia stata una follia quello che ha detto questo prefetto? Ha sbagliato Alfano? Allora, voi siete senza censura e senza tagli e chiamate me, sapete benissimo che io parlo liberamente. Certo. Bene, anche se chiaramente andrò controcorrente, bene, il prefetto ha usato sicuramente parole che, insomma... appaiono inopportune anche a chi magari è poco avvezzo per un'alta carica dello Stato, però il concetto non poteva e non deve essere buttato nel cesso così, cioè? Come è stato fatto, perché cioè? Ha messo il dito nella piaga e ha sottolineato un problema reale, vero, concreto, in una città che piaccia o non piaccia, e qua nessuno ne sta parlando, che è vero che è in testa le classifiche nazionali per l'aumento del consumo di droghe e dello spaccio, è vero, è in testa, è d'accordo, d'accordo. Dunque? Beh, i genitori, lui ha voluto sottolineare un problema, ma non è che ci vuole il prefetto Maccari per sottolineare il fatto che i genitori si devono occupare dei figli che si drogano. Su. Cosa mi ha chiesto? Se il ministro ha fatto bene o male, io le chiedo, il ministro si deve prima autocensurare perché da ministra è andato a fare una manifestazione contro la magistratura a Milano. Lei dirà cosa c'entra questo? Ognuno deve fare prima i conti con se stesso e poi censurare gli altri. Cioè, lei sta dicendo, da sindacalista della polizia, che no. Alfano non può permettersi, per i suoi precedenti, di fare la lezione a un prefetto, di fare la morale a un prefetto. Ma l'ha girata e va bene anche così. No, ma che ne so, non l'ho girata così. Guardi, stanotte noi abbiamo portato, abbiamo portato due ragazzini di 12 anni al pronto soccorso, che erano completamente, uno ubriaco e uno sfatto. Ma questo dove? A Perugia? A Milano. Va bene. Proprio da lei. Ma va benissimo, qual è il problema? No, anzi, va malissimo. Chiediamoci a 12 anni, a luna di notte, da soli, cosa ci facevano in giro. Non è sbagliato. Ho capito, ma il prefetto di Perugia, che stramaledetto cazzo c'entra con una famiglia? Io glielo dico alla Cruciani, cosa c'entra un prefetto di Perugia? Non deve dare lezioni alle famiglie, il prefetto di Perugia. Deve fare il suo mestiere e stare zitto la maggior parte delle volte, anzi. Io non faccio l'avvocato difensore di Repucci, o come si chiama, il prefetto, anche perché i prefetti... Ma adesso le famiglie prendono lezione da Repucci, dal prefetto di Perugia. Dai, su. No, mi scusi, non è una questione di lezione da Repucci, perché poi, ripeto, ho già giudicato inopportune le sue parole, ma io volevo andare al di là, se mi consente, cioè, io volevo dire, non guardiamo il dito se non vediamo la luna. Vabbè, ma i problemi della droga a Perugia, i problemi delle famiglie nell'affrontare il problema della droga, li conosciamo a prescindere da quello che dice Repucci. No, lei li conosce, ma li conoscono tutti, su, ogni famiglia li conosce i problemi. Ma che cosa succede? Io le parlo ovviamente dal mio punto di vista. Ma Alfano, che errore ha commesso secondo lei? Un errore... un'eccessiva esagerazione nella prendere, ma magari fosse questo il suo tenore, il suo metodo di conduzione invece, delle cose. Cioè, eh? Si dovrebbe dimettere, sì, dovrebbe scusi, dimettere se stesso. Vuole chiudere 267 uffici di polizia, mi scusi, questo non la preoccupa. E non ha alzato un dito per fare qualcosa. Non le preoccupa che siamo in cima alla classifica quest'anno di consumo di cocaina in Italia? Ma il prefetto andrebbe reintegrato, secondo lei? Guardi, questo onestamente non doveva proprio essere rimosso. Se mai non doveva essere rimosso. E poi si trovano mille modi per tirarlo via da lì. Assolutamente. Grazie, me, grazie Macari, a presto. Grazie. Oh, chi abbiamo? Abbiamo Angelo da Milano. Angelo. Sono qua, buonasera. Vai. Ma dunque, guarda, io avevo chiamato fin dall'inizio, prima che chiamasse Sgarbi, però devo dire che sono perfettamente d'accordo con lui. Cioè, che poi dopo non capisco perché ci si stracci le vesti se non si è politically correct. Ma come? Qui si usa un linguaggio, devo dire, a dir poco scurrile dappertutto, a cominciare da lei. E ci meravigliamo se uno interrogato su un argomento, oppure se si sta parlando di un argomento, anche se pur prefetto, dice la sua papale. Non è anche se pur prefetto, cioè, ma non hai cioè, anche se anche, non ha importanza che il prefetto di Perugia parge. Ma che c'entra? A parte che non ci sono le mignotte in Parlamento. Ma non lasci stare il che c'entra, lei col che c'entra va sempre a spasso. Noi siamo un paese, siamo dei poveracci, quindi va bene anche il prefetto che da padre dice la sua, l'ha detta papale, non è politically correct, e chi se ne frega, non è politically correct. Se però bene, se le piace così, se le piace il prefetto di Perugia, amico mio, becca del prefetto di Perugia. Oh. Ci sentiamo domani alle 18:30, ciao. Allora, l'appellativo per Parenzo, disonesto della peggior specie, appellativo per Cruciani, per riconoscendogli onestà intellettuale, l'appellativo giusto è merda. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E io sono fiero di te, perché tu non sei frocio. Radio 24, la passione si sente.